Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le conseguenze del maltempo, danneggiata dai fulmini, la linea ferroviaria fra Trieste e Monfalcone, mattinata di disagi per i viaggiatori. A Caneva allarme per la rapida salita del livello del Meschio, oltre 2 metri in poche ore. Il sindaco torna a chiedere la stesura di un protocollo per la gestione congiunta del fiume, le cui acque arrivano dal Veneto. Inaugurato a Basaldella il nuovo ponte sul Cormor per il consorzio Bonifica Friulana, è un'opera strategica per la sicurezza idraulica dell'area. Sale la popolarità del presidente della regione Fedriga, nei dati del Sole 24 Ore il migliore dei sindaci è il primo cittadino di Udine, De Toni. Traffici portuali e dazi, un incontro con vari esperti a Trieste, lo spedizioniere Parisi sollecita la nomina della presidenza dell'autority. Cinema muto, prime anticipazioni per le giornate pordenonesi al via il 4 ottobre con 200 titoli fra corti e lungometraggi. Sono le 12.31, buona giornata ancora da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In primo piano gli effetti del maltempo delle scorse ore. Cessata l'allerta arancione, c'è una tregua fino alla ripresa delle precipitazioni prevista per la seconda parte della giornata. Precipitazioni che sono state intense la scorsa notte in alcune zone, tra le quali quella al confine fra le province di Trieste e Gorizia. In 3 ore sono caduti per esempio nella zona di San Pelagio quasi 110 mm d'acqua e i fulmini hanno provocato danni alla linea ferroviaria. Questa mattina forti disagi per i viaggiatori. Tanto fastidio, 1:20 da Cervignano. Un'altra giornata difficile per i pendolari che abitualmente utilizzano il treno, la terza in una settimana. Ritardi fino a 90 minuti per una quarantina di convogli, 3 le cancellazioni totali, 13 quelle parziali. Stavolta la causa è il maltempo. I molti fulmini caduti nella notte tra Carso e Costa hanno mandato in tilt la rete, con danni al sistema di distanziamento dei mezzi. Tecnici al lavoro. Trenitalia ha attivato servizi sostitutivi con i bus, ma i più hanno avuto difficoltà a muoversi da e per Trieste. Oggi è il primo giorno che viaggio da pendolare. Brutta esperienza, insomma. Un po' sì, perché anche il mio primo giorno di lavoro. Lunga attesa per chi aspettava l'arrivo dei propri familiari. Stiamo aspettando mia figlia che viene da Mestre e non so, abbiamo letto che ci sono 40 minuti di ritardo. Mi hanno detto ora che stanno facendo scendere dal treno, quindi penso di farli prendere il bus a sto punto da lì. E domani sarà una giornata difficile per chi utilizza il treno. Alcune sigle autonome hanno proclamato uno sciopero del personale di Ferrovie dello Stato. Il maltempo ha creato problemi anche alle strade. Costiera chiusa in alcuni momenti della mattinata all'altezza di Santa Croce Mare. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alberi pericolanti in un punto dove il temporale è stato forte e persistente nella notte, con oltre 100 mm di acqua caduta in meno di 3 ore. Una quindicina è il loro interventi in tutto, in particolare per alberi e allagamenti. Sospeso in mattinata anche il collegamento via mare del Delfino Verde. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ci spostiamo a Caneva, dove è salito il livello dei corsi d'acqua, in particolare del Meschio, che nella cittadina confluisce nella Livenza. È un fiume in cui ci sono delle piene improvvise, pensate solo a ieri sera è andato su di 2,20 m in 1 ora e un quarto, quindi capite questa grossa difficoltà. Il fiume Meschio, che segna il confine tra Friuli e Veneto, è caratterizzato da piene intense e improvvise. La centralina Ponte della Muda ieri segnava una crescita di oltre 2 metri del livello dell'acqua in 1 ora. Nella vicina Vittorio Veneto è esondato, a Caneva è rimasto entro gli argini, ma continua ad essere osservato speciale per la sicurezza di chi qui ci vive e lavora. Arno Martinuzzo è titolare di un vivaio a Fratta. Soprattutto in questi periodi con le bombe d'acqua naturalmente c'è da preoccuparsi, perché non sono cose prevedibili, arrivano al momento e creano problemi. Il sindaco di Caneva Salatine preme per la stesura di un protocollo per la gestione congiunta del fiume, le cui acque arrivano dal Veneto già dallo scorso autunno, quando la piena aveva raggiunto il livello del ponte. Dino Salatine. La gestione deve essere fatta dalle due regioni, quindi un incontro con Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile e Enel, per la gestione del Meschio quando si alza, perché sennò avremo sempre questo problema visto l'intensità, diciamo, dei fenomeni piovosi. Funziona invece bene la cassa di espansione nella frazione di Stevenà, permette di far defluire le acque del torrente Grava che scendono dal Cansiglio, mettendo in salvo il paese di Fratta, ancora Salatine. In questo momento abbiamo anche 1 milione di euro che stiamo sistemando la Grava e poi il collegamento dal cimitero di Fratta al Meschio, per cui dovremmo essere sufficientemente tranquilli e sicuri. Nella serata di ieri si è registrata anche una caduta di detriti sulla SP61, già ripulita da EDR, e di alcuni alberi in via Longone rimossi dalla protezione civile comunale. Caneva, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Problemi alla viabilità questa mattina nel Goriziano dopo le piogge insistenti della notte. A Lucinico è stata chiusa via Antico Castello, ci sono state delle pre-chiusure tra via Sartorio e via Fonde, tra via Antico Castello e via delle Fornaci. Il provvedimento è stato reso necessario dopo che un veicolo si è bloccato in mezzo al fango venuto giù dalla collina. Sono intervenuti polizie e vigili del fuoco. Vediamo dunque la situazione del meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste. 22 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 21 gradi e mezzo, Udine e Pordenone 22 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 19, Forniti sopra 18 gradi, Piancavallo 17, Tarvisio 15 gradi, Sappada 16, in quota su Monte Zoncolan 12 gradi, su Monte Lussari 9, sulla costa Grado 23 gradi e mezzo con temperatura del mare di 25 gradi, a Lignano 23 gradi con temperatura del mare di 27 gradi. E per fare il punto della situazione meteo prevista nelle prossime ore abbiamo parlato con il previsore dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Marcellino Salvador. Sulla nostra regione, dopo un temporaneo miglioramento nella giornata di oggi, dalla serata ci sarà l'arrivo di un nuovo fronte atlantico che arriva dal nord Europa e che ci interesserà prevalentemente nella prossima notte. Con questo direi che dalla serata di oggi avremo temporali da prima in montagna probabilmente, poi nel corso della notte fino al primo mattino anche su pianura e costa, qualche temporale potrebbe essere ancora piuttosto forte. Miglioramento poi nel corso della giornata di domani, anche se l'arrivo di aria ulteriormente più fredda in quota porterà ancora un po' di stabilità per domani pomeriggio sera, ma con piogge di minore intensità. Dopodiché direi che da mercoledì bel tempo fresco su tutta la regione che proseguirà per diversi giorni. Questo abbassamento della temperatura ci riporta nella media del periodo oppure diversamente più basso? Sì, andremo a livelli al di sotto delle medie del periodo per alcuni giorni, in particolare appunto da domani, da martedì fino a venerdì saremo al di sotto della norma del periodo, poi però dal weekend ritorneremo gradualmente a salire per portarci appunto su valori normali e probabilmente verso il 15 anche leggermente superiori. Comunque è una tregua assolutamente importante rispetto al gran caldo che c'è stato fino a pochi giorni fa. Cronaca, merce di contrabbando, bigiotteria e reggiseni contenenti sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 500 peluche contraffatti sono stati scoperti dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari della Guardia di Finanza in due container in transito nel porto di Trieste diretti in Germania. La merce arrivava dalla Repubblica Popolare Cinese dopo un trasbordo avvenuto in Grecia. In un primo container sono stati trovati diversi colli non dichiarati agli effetti doganali e quindi considerati appunto di contrabbando, e tra questi i peluche contraffatti. Un secondo carico di merce contava circa 1500 articoli di bigiotteria e oltre 13.000 reggiseni che gli esami effettuati dai laboratori chimici dell'Agenzia delle Dogane hanno evidenziato contenere sostanze nocive per la salute. A Basaldelle è stato inaugurato questa mattina il nuovo ponte sul Cormor, opera ritenuta strategica per la sicurezza idraulica del territorio. A Basaldella di Campoformido ricordano ancora quella notte dell'11 novembre 2014 quando si rese necessario rimuovere i parapetti dal ponte di Via Zuiano. Troppo alto sia il rischio allagamento che quello crollo. Walter Verlino, volontario della Protezione Civile. Il ponte era stretto, quindi come un imbuto. Tutta la roba che veniva giù ostruiva e faceva da diga, insomma. No? E lì era la preoccupazione perché si ingrossava sempre più. Il nuovo ponte ad arco con struttura in acciaio sul torrente Cormor, inaugurato oggi, è pensato per riuscire a far transitare in sicurezza piene storiche con tempi di ritorno di 200 anni, avendo ancora un margine di 1,5 metri. Massimiliano Petri, sindaco di Campoformido. Questo ponte, a differenza del precedente, non fa il cosiddetto effetto TAP e quindi risolve una criticità abbastanza importante. 2.650.000 euro è il costo, finanziato dalla regione. 19 anni di iter burocratico dal piano stralcio per la difesa idraulica del 2006 e un anno e mezzo per costruirlo. Opera realizzata dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, coinvolte solo ditte del territorio. Stefano Bongiovanni, RUP, direttore tecnico del Consorzio. Questa è un'opera importante, ma non è l'unica prevista nel piano stralcio per la sicurezza idraulica del torrente Cormor. L'opera ritenuta prioritaria è il canale scolmatore che dal Cormor porta l'acqua nel torrente Torre per una portata di 100 metri cubi al secondo, che andrebbe ad alleggerire dal punto di vista idraulico tutti i territori posti più a valle. Impegno spesa per lo scolmatore è circa 140 milioni di euro, i finanziamenti sono ancora da reperire. Nel frattempo il consorzio sta potenziando le casse di espansione del torrente e intervenendo sulla protezione delle sponde. Venerdì il Cormor era in secca, oggi la portata è notevole. Riflette le sfide poste dal clima, problemi di irrigazione dovuti alla siccità, che lasciano il passo nel giro di poche ore a problemi idraulici per le piogge eccessive. Campo Formido, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, risulta il più popolare fra i governatori, secondo il sondaggio effettuato dal quotidiano Il Sole 24 Ore. Il gradimento è salito al 66,5% contro il 64,2% dello scorso anno. Tra i sindaci, il primo cittadino di Udine, Alberto Felice De Toni, figura nella migliore posizione fra quelli del Friuli Venezia Giulia. È al 25° posto in Italia. C'è soddisfazione ovviamente, ma questo ci mette di fronte a una grande responsabilità. La fiducia che ci viene confermata dai cittadini del Friuli Venezia Giulia ci deve anche portare un grande senso di responsabilità, di realismo e di ancora maggior impegno per tutelare e valorizzare gli interessi della comunità di questa regione. Maggior impegno quindi, ma anche soddisfazione per il presidente della regione Fedriga, che si conferma in cima alla classifica di gradimento dei governatori del Sole 24 Ore. Con 66,5 punti, battuto di un soffio il presidente del Veneto Zaia, fermo a 66. Al terzo posto il governatore del Piemonte Cirio, con 59. La classifica Governance Poll, realizzata dall'Istituto Noto Sondaggi, misura il gradimento di sindaci e presidenti di regione, confrontandolo con il momento dell'elezione. La domanda che viene rivolta è semplice: voterebbe a favore o contro se l'elezione fosse domani? Un risultato che vede in cima i governatori del Nord-Est e innesca una riflessione da parte di Fedriga sull'ipotesi ormai tramontata del terzo mandato. Noi l'abbiamo detto con chiarezza, dopo come ho avuto modo di dire altrettanto, ognuno si prende le sue responsabilità, anche della volontà di bloccare la libera scelta dei cittadini. A Fedriga sono arrivati i complimenti del senatore e segretario regionale della Lega Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto. Fedriga guida, convince e porta risultati con uno stile concreto che è da sempre il marchio della Lega. Mentre per il consigliere regionale Mauro Di Berte, capogruppo di Fedriga presidente, la fiducia e l'apprezzamento dimostrati sono un segnale positivo per il futuro della regione, che può contare su una guida forte e apprezzata. Per quanto riguarda i primi cittadini della regione, i risultati sono meno buoni. Il primo posto va al sindaco di Udine De Toni, che si piazza 26esimo con 56 punti, uno in più rispetto al sindaco di Gorizia Ziberna, che però arriva 34esimo. Per entrambi comunque il gradimento è in crescita, cosa che non può dire il sindaco di Trieste Di Piazza, posizione numero 78 e in calo con un gradimento del 50%. Quello di Pordenone, in quanto eletto quest'anno, non è stato conteggiato. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è parlato di economia e traffici questa mattina a Trieste in un appuntamento organizzato dalla Camera di Commercio con l'intelligenza artificiale e i dazi statunitensi, tra i temi affrontati dai relatori, tra i quali il giornalista Federico Rampini. Con lo spedizioniere Francesco Parisi abbiamo parlato dei motivi di preoccupazione per il porto e del corridoio commerciale India-Medio Oriente-Europa IMEC. Il motivo principale è il problema del Mar Rosso, con la riduzione al minimo dei passaggi del canale di Suez, per cui le navi circumnavigano l'Africa, arrivati a Gibilterra, non gli conviene più entrare in Mediterraneo per andare in centro Europa, ma andare nei porti del nord. E questo ha fatto sì che l'anno scorso i porti del nord sono cresciuti del 6%, noi abbiamo arrancato. Secondo motivo che si aggiunge è il fatto che noi da un anno non abbiamo una presidenza, abbiamo un commissario che è stata una bravissima persona, ma non ha i poteri del presidente, non può fare strategie. Un porto vive di strategie e lo abbiamo visto negli ultimi 10 anni, abbiamo avuto una presidenza che ha lavorato sulle strategie condivise con gli operatori, e un anno di assenza di chi porta avanti e elabora le strategie è pericoloso. Ci siamo associati, spingiamo la politica del territorio, la politica nazionale e le grandi imprese a sostenere un ruolo attivo di Trieste quale gateway di IMEC attraverso lo strumento del porto di Trieste. Perché il porto di Trieste? Perché l'Italia può promuoversi come gateway di IMEC solo se può offrire una soluzione per un ampio territorio europeo, e Trieste serve un territorio di quasi 90 milioni di cittadini europei, quasi il 20% della popolazione europea, in 11 diversi stati, 5 dei quali non hanno sbocco al mare, tutto il centro Europa. Certamente non è un progetto che porterà frutti nel breve periodo, io dico che lo porterà ai miei nipoti. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:46, siamo alla pagina della cultura e degli spettacoli. Sono in corso da alcune settimane i lavori di restauro e conservazione dell'altare ligneo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Prodolone, nel comune di San Vito al Tagliamento, realizzato nel 1515 da Giovanni Martini. Si tratta di un'imponente opera a due piani con 14 figure di santi, una Madonna col bambino al centro e la figura del Redentore a doppia altezza. L'intervento, finanziato da Fondazione Friuli, ha puntato innanzitutto alla disinfestazione, mentre una ditta specializzata ha avviato i rilevamenti tridimensionali per generare un modello virtuale. Ha avviato anche il rilevamento microclimatico, in particolare dell'umidità. È stata allestita poi l'impalcatura per procedere al restauro vero e proprio, mentre sono in corso di studio altri interventi quali un nuovo impianto di illuminazione e soprattutto un progetto di valorizzazione e divulgazione di ampio respiro che completerà, insieme ad altre migliorie, l'operazione in corso, la cui ultimazione si prevede per fine anno. Circa 200 titoli fra corti e lungometraggi arriveranno dalle cineteche nazionali e internazionali per la 44esima edizione delle Giornate del Cinema Muto, rassegna che si svolgerà dal 4 all'11 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone, 13 sezioni, inclusi gli eventi speciali, per decine di film che ogni giorno, dal primo mattino fino a tarda sera, si succederanno sullo schermo, tutti accompagnati con musica dal vivo dai migliori musicisti specializzati. Come ha sottolineato Jay Weisberg, per il 10° anno alla direzione delle giornate, il programma intende offrire alla comunità internazionale dei cinefili riunita a Pordenone e a tutti gli spettatori una sorta di terapia cinematografica, grazie anche all'alto numero di commedie, per provare, nonostante quanto sta accadendo nel mondo, a trovare solidarietà, sorridendo, nella condivisione della nostra umanità. L'evento musicale che aprirà ufficialmente il festival sabato 4 ottobre è Cyrano di Bergerac di Augusto Genina. La russa Anna Graf ha vinto a Gorizia il primo premio al 22° concorso internazionale di canto cameristico per voce sola e pianoforte, che ha visto un numero record di iscritti e un elevato livello artistico. Gli altri premiati della rassegna organizzata dall'associazione Seghizzi sono stati Jakob Evert, Nina Schumert e Lea Kochlen dalla Germania, Maria Magdalena Kocila dalla Croazia e Jerica Steklasa della Slovenia. La giuria internazionale era presieduta da Eddie Denadai. Il concerto di gala e le premiazioni hanno concluso ieri sera un'edizione che ha superato ogni aspettativa. Ancora musica, con un appuntamento per questa sera a Trieste, il concerto dal titolo Da Vienna a Hollywood con l'orchestra da camera del Friuli Venezia Giulia, diretta da Romolo Gessi in Piazza Verdi alle 21. Il programma prevede un percorso musicale che, partendo dalle brillanti musiche da ballo viennesi, toccherà alcune delle più celebri colonne sonore per il grande schermo, dai successi di Henry Mancini come La Pantera Rosa, Colazione da Tiffany, Peter Gunn, alle intramontabili atmosfere western dei film di Ennio Morricone, ma anche di altri celebri film, da Star Wars a Indiana Jones. Una notizia di sport in chiusura: basket, primo colpo di mercato confermato per la Pallacanestro Trieste, che mette sotto contratto per la prossima stagione Davide Moretti, classe 1998, che ha vestito nell'ultimo campionato la maglia della Reyer Venezia in Serie A. Moretti, 27 anni, play guardia, porta con sé un bagaglio di esperienze nazionali e internazionali di altissimo profilo, a partire dal riconoscimento vinto nel 2019 con Texas Tech e assegnato allo studente atleta con la media accademica più alta fra tutti i partecipanti alle Final Four del campionato universitario statunitense.